Il romanzo di Ferrara, Gli occhiali d'oro, di Giorgio Bassani. Lettura integrale a più voci diretta da Daniela Ardini. Prima puntata. Il tempo ha cominciato a diradarli. Eppure non si può ancora dire che siano pochi a Ferrara quelli che ricordano il dottor Fadigati. Athos Fadigati, sicuro, rievocano. L'otorino laringoiatra che aveva studio e casa in via Gorgadello, a due passi da Piazza delle Erbe, e che è finito così male, pover'uomo, così tragicamente. Proprio lui che da giovane, quando venne a stabilirsi nella nostra città dalla nativa Venezia, era parso destinato alla più regolare, più tranquilla e perciò stesso più invidiabile delle carriere. Fu nel 19, subito dopo l'altra guerra. Per ragioni di età, io che scrivo non ho da offrire che un'immagine piuttosto vaga e confusa dell'epoca. I caffè del centro rigurgitavano di ufficiali in divisa. Ogni momento, lungo Corso Giovecca e Corso Roma, oggi ribattezzato Corso Martiri della Libertà, passavano camion sventolanti di bandiere rosse. Sulle impalcature che ricoprivano la facciata in costruzione del Palazzo delle Assicurazioni Generali, di fronte al lato nord del castello, era steso un enorme scarlatto telone pubblicitario che invitava amici e avversari del socialismo a bere con Cordi l'aperitivo Lenin, le zuffe fra contadini e operai massimalisti da una parte ed ex combattenti dall'altra scoppiavano quasi ogni giorno. Questo clima di febbre, di agitazione, di distrazione generale, entro cui si svolse la prima infanzia di tutti coloro che sarebbero diventati uomini nel ventennio successivo, dovette in qualche modo favorire il veneziano Fadigati. In una città come la nostra, dove i giovani di buona famiglia riluttarono più che in qualunque altro luogo a ritornare dopo la guerra alle professioni liberali, si capisce come avesse potuto mettere radici senza quasi farsi notare. Fatto sta che nel 25, quando la scalmana anche da noi cominciò a placarsi e il fascismo, organizzandosi in gran partito nazionale, fu in grado di offrire vantaggiose sistemazioni a tutti i ritardatari, Athos Fadigati era già solidamente impiantato a Ferrara, titolare di un magnifico ambulatorio privato e per di più direttore del reparto orecchio-naso-gola del nuovo arcispedale Sant'Anna. Aveva incontrato, come si dice, non più giovanissimo e con l'aria già allora di non esserlo mai stato. Piacque che fosse venuto via da Venezia, lo raccontò una volta lui stesso, non tanto per cercare fortuna in una città non sua, quanto per sottrarsi all'atmosfera angosciosa di una vasta casa sul Canal Grande, nella quale aveva visto spegnersi in pochi anni ambedue i genitori e una sorella molto amata. Erano piaciuti i suoi modi cortesi, discreti, il suo evidente disinteresse, il suo ragionevole spirito di carità nei confronti dei malati più poveri, ma prima ancora che per queste ragioni dovette raccomandarsi per come era, per quegli occhiali d'oro che scintillavano simpaticamente sul colorito terreo delle guance glabre, per la pinguedine niente affatto sgradevole di quel suo grosso corpo di cardiaco congenito scampato per miracolo alla crisi della pubertà e sempre avvolto, anche l'estate, di soffici lane inglesi. Durante la guerra, a causa della salute, non aveva potuto prestar servizio che nella censura postale. In lui ci fu, di sicuro, insomma, a prima vista qualcosa che subito attrasse e rassicurò. Lo studio di via Gorgadello, dove riceveva dalle 4 alle 7 di ogni pomeriggio, completò più tardi il suo successo. Si trattava di un ambulatorio davvero moderno. Come fino allora a Ferrara nessun dottore ne aveva mai avuto di uguali. Fornito di un impeccabile gabinetto medico, che quanto a pulizia, efficienza e perfino ampiezza poteva essere paragonato soltanto a quelli del Sant'Anna, si fregiava, oltre a ciò, di ben 8 stanze dell'attiguo appartamento privato come di altrettante salette d'aspetto per il pubblico. I nostri concittadini, specie quelli socialmente più ragguardevoli, ne furono abbagliati, divenuti all'improvviso insofferenti del disordine pittoresco, se si vuole, ma troppo familiare e in fondo equivoco, nel quale gli altri 3 o 4 anziani specialisti locali continuavano a ricevere le rispettive clientele, se ne commossero come per un omaggio particolare. Dove erano, da fatigati, non si stancavano mai di ripetere, le interminabili attese ammucchiati l'uno sull'altro come bestie, ascoltando attraverso le fragili pareti divisorie voci più o meno remote di famiglie quasi sempre allegre e numerose, mentre alla fioca luce di una lampadina da 20 candele l'occhio non aveva da posarsi scorrendo lungo i tristi muri che su qualche non sputare di maiolica, qualche caricatura di professore universitario o di collega, per non parlare di altre immagini anche più melanconiche, iettatorie, di pazienti sottoposti a enormi clisteri davanti a un intero collegio accademico o di laparatomie a cui, sogghignando, provvedeva la morte stessa travestita da chirurgo. E come poteva essere accaduto? Come? Che si fosse sopportato fino allora un simile trattamento da medioevo. Andare da fatigati costituì ben presto, più che una moda, una vera e propria risorsa. Specie nelle sere d'inverno, quando il vento gelido si infilava fischiando da Piazza Cattedrale giù per via Gorgadello, era con schietta soddisfazione che il ricco borghese, infagottato nel suo cappottone di pelliccia, prendeva a pretesto il più piccolo mal di gola per imbucare la porticina socchiusa, salire le 2 rampe di scale, suonare il campanello dell'uscio a vetri. Lassù, oltre quel magico riquadro luminoso, alla cui apertura presiedeva un'infermiera in camice bianco, sempre giovane e sempre sorridente, lassù lui trovava termosifoni che andavano a tutto vapore, come non dico a casa propria, ma nemmeno quasi al circolo dei negozianti o a quello dell'Unione. Trovava poltrone e divani in abbondanza, tavolinetti sempre forniti da aggiornatissima carta stampata, abat-jour da cui si effondeva una luce bianca, forte, generosa. Trovava tappeti che quando uno si fosse stancato di rimanere lì a sonnecchiare al calduccio o a sfogliare le riviste illustrate, lo invogliavano a passare da un salotto all'altro guardando i quadri e le stampe, antichi e moderni, attaccati fitti fitti alle pareti. Trovava infine un medico bonario e conversevole che, mentre lo introduceva personalmente di là per esaminargli la gola, pareva soprattutto ansioso, da quel vero signore che anche era, di sapere se il suo cliente avesse avuto modo di ascoltare alcune sere prima al Comunale di Bologna Aureliano Pertile nell'Ohengrin, oppure, che so, se avesse visto bene, appeso a quella data parete di quel dato salotto, quel tale De Chirico o quel tale Casoratino, e se gli fosse piaciuto quel tal'altro De Pisis. E faceva poi le più alte meraviglie se il cliente, a quest'ultimo proposito, confessava non soltanto di non conoscere De Pisis, ma di non aver mai saputo prima d'allora che Filippo De Pisis fosse un giovane molto promettente pittore ferrarese. Un ambiente comodo, piacevole, signorile e perfino stimolante per il cervello, in conclusione, dove il tempo, il dannato tempo che è sempre stato dappertutto il gran problema della provincia, passava, che era un piacere. Non c'è nulla più dell'onesta pretesa di mantenere distinto nella propria vita ciò che è pubblico da ciò che è privato, che ecciti l'interesse indiscreto delle piccole società per bene. Cosa mai succedeva di Ato Sfadigati dopo che l'infermiera aveva chiuso la porta a vetri dell'ambulatorio dietro le spalle dell'ultimo cliente? Il non chiaro, o perlomeno poco normale, impiego che il dottore faceva delle sue serate, contribuiva a stimolare di continuo la curiosità nei suoi riguardi. Sì, in Fadigati c'era un che di non perfettamente comprensibile. Ma anche questo piaceva in lui. Anche questo attirava. Le mattine tutti lo sapevano come le passava e sulle mattine nessuno aveva niente da dire. Alle 9 era già all'ospedale e fra visite e operazioni, perché operava anche, non c'era giorno che non gli capitasse un paio di tonsille da togliere o una mastoide da scalpellare, tirava avanti di seguito fino all'1. Dopodiché, fra l'1 e le 2, non era raro incontrarlo mentre risaliva a piedi Corso Giovecca col pacchetto del tonno sott'olio o dell'affettato appeso al mignolo e col Corriere della Sera che gli spuntava dalla tasca del soprabito. Dunque, pranzava a casa. E siccome la cuoca non ce l'aveva e la donna a mezzo servizio che gli teneva puliti casa e studio si presentava soltanto verso le 3, un'ora prima dell'infermiera, doveva essere lui stesso, storia in fondo già bizzarra abbastanza, a prepararsi l'indispensabile piatto di pasta asciutta. Anche per cena lo avrebbero atteso invano negli unici ristoranti cittadini che a quell'epoca fossero giudicati di un certo decoro, da Vincenzo, dalla Sandrina ai Tre Galletti, e neppure da Roveraro, in vicolo del Granchio, la cui cucina casalinga richiamava tanti altri scapoli di mezza età. Ma ciò non significava affatto che mangiasse in casa come al mattino. In casa non doveva restarci mai la sera. A passare verso le 8:15 da via Gorgadello era facile coglierlo proprio nel momento che usciva. Indugiava un attimo sulla soglia, guardando in alto, a destra, a sinistra, come incerto del tempo e della direzione da prendere. Infine si avviava, mescolandosi al fiume di gente che a quell'ora, d'estate come d'inverno, sfilava adagio davanti alle vetrine illuminate di via Bersaglieri del Po, come lungo le mercerie veneziane. Dove andava? In giro, a zonzo qua e là, apparentemente senza una meta precisa. Dopo un'intensa giornata di lavoro gli piaceva certo sentirsi tra la folla. La folla allegra, vociante, indifferenziata. Alto, grosso, col cappello a lobbia e i guanti gialli, nonché, se era inverno, col pastrano foderato di opossum e col bastone infilato nella tasca destra, dalla parte del manico, fra le 8 e le 9 di sera poteva esser visto in qualsiasi punto della città. Ogni tanto si aveva la sorpresa di scorgerlo fermo di fronte alla vetrina di qualche negozio di via Mazzini e di via Saraceno, che guardava, attento, sopra la spalla di chi gli stava davanti. Spesso sostava accanto alle bancarelle di chincaglierie e di dolciumi disposti a decine lungo il fianco meridionale del Duomo, o in piazza Travaglio o in via Garibaldi, fissando senza dir motto l'umile merce esposta. In ogni caso, erano gli angusti e gremiti marciapiedi di via San Romano quelli che Fadigati batteva di preferenza. A incrociarsi con lui, sotto quei portici bassi, dove stagnava un acre sentore di pesce fritto, di salumi, di vini e di filati da poco prezzo, ma pieni soprattutto di folla, donnette, soldati, ragazzi, contadini ammantellati, eccetera, faceva meraviglia il suo occhio vivo, allegro, soddisfatto. Il vago sorriso che gli spianava il volto. «Buonasera, dottore!» qualcuno gli gridava dietro. Ed era un miracolo, si udiva, se, trasportato già lontano dalla corrente, si voltava a rispondere al saluto. Riappariva soltanto più tardi, dopo le 10, in uno dei 4 cinema cittadini: l'Excelsior, i Salvini, il Rex e il Diana. Ma anche qui, ai posti di galleria, dove le persone distinte si ritrovavano sempre fra loro come in un salotto, preferiva gli ultimi posti di platea. E quale imbarazzo per le persone distinte vederlo là di sotto, così ben vestito, confuso in mezzo alla peggiore teppa popolare. Era proprio di buon gusto, sospiravano, volgendo accorati gli sguardi altrove, ostentare fino a quel segno lo spirito di Bohème. È abbastanza comprensibile perciò che verso il 30, quando Fadigati aveva già una 40 d'anni, non pochi cominciassero a pensare che gli occorresse al più presto prendere moglie. Se ne sussurrava fra pazienti, a poltrone accostate, nelle salette medesime dell'ambulatorio di via Gorgadello, in attesa che l'ignaro dottore si affacciasse dalla porticina riservata alle sue periodiche apparizioni e invitasse a passare di là. Se ne accennava più tardi a cena fra mogli e mariti, badando che la figliolanza, col naso nella minestra e le orecchie dritte, non riuscisse a indovinare a chi ci si riferiva. E ancora più tardi, a letto, ma qui parlandone senza più ritegno, l'argomento aveva abitualmente già invaso 5 o 10 minuti di quelle care mezze ore sacre alle confidenze e agli sbadigli sempre più prolungati che precedono di norma lo scambio dei baci e dei buonanotte coniugali. Ai mariti, come alle mogli, sembrava assurdo che un uomo di quel valore non pensasse una volta per tutte a metter su famiglia. A parte l'indole magari un po' da artista, ma nel complesso così seria e quieta, quale altro laureato ferrarese di qua dai 50 poteva vantare una posizione migliore della sua? Simpatico a tutti, ricco, sì, per guadagnare ormai guadagnava quello che voleva, socio effettivo dei 2 maggiori circoli cittadini e perciò accetto in pari grado tanto alla media e piccola borghesia delle professioni e delle botteghe quanto all'aristocrazia, con o senza blasone, dei patrimoni e delle terre, provvisto perfino della tessera del fascio che, sebbene lui si fosse sommessamente dichiarato apolitico per natura, il segretario federale in persona aveva voluto dargli a tutti i costi, cos'è che gli mancava adesso, se non una bella donna da portare ogni domenica mattina a San Carlo in Duomo e la sera al cinematografo, impellicciata e ingioiellata come si conviene? E perché mai non si dava un po' d'attorno per trovarne una? Forse, ecco, forse era assorbito dalla relazione con qualche donnetta inconfessabile, tipo sarta, governante, serva, eccetera. Come succede a molti medici, forse gli piacevano soltanto le infermiere. E appunto per questo, chissà, quelle che di anno in anno passavano per il suo studio erano sempre talmente carine, talmente procaci. Ma anche ammettendo che le cose stessero davvero in questi termini, e d'altra parte era curioso che sull'argomento non fosse mai trapelato nulla di preciso, per qual motivo non si sposava? Voleva proprio fare anche lui la fine che aveva fatto ai suoi tempi il dottor Corcos, l'ottantenne primario dell'ospedale, il più illustre dei medici ferraresi, il quale, secondo quanto si raccontava, dopo aver amoreggiato per anni con una giovane infermiera, a un certo punto era stato costretto dai familiari di lei a tenersela per tutta la vita? E in città fervevano già le ricerche della ragazza davvero degna di diventare la signora Fadigati, ma questa non persuadeva per una ragione, quella per un'altra. Nessuna pareva mai abbastanza adatta al solitario diretto a casa che certe notti, uscendo tutti assieme dall'Excelsior o dal Salvini in Piazza delle Erbe, era dato scorgere a un tratto laggiù, in fondo al listone, un momento prima che sparisse dentro la buia fenditura laterale di via Bersaglieri del Po. Quand'ecco, non si sa da chi messe in giro, cominciarono a udirsi strane, anzi, stranissime voci. Non lo sai? Mi risulta che il dottor Fadigati è... sta a sentire la novità. Conosci mica quel dottor Fadigati che abita in Gorgadello, quasi all'angolo con Bersaglieri del Po? Ebbene, ho sentito dire che... Avete ascoltato la prima puntata de Il romanzo di Ferrara, Gli occhiali d'oro, di Giorgio Bassani. Lettura integrale con Piero Samataro. Una voce, Marino Campanaro. Realizzazione tecnica di Marco Pilastro. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Daniela Ardini. Il romanzo è pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.